בלו טיים לייב. Live. 30 secondi dopo le 21, di nuovo in pista, di nuovo in frequenza, di nuovo insieme al mio carissimo nonnetto. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Sì, sono nonnetto, ma nonnetto musicale. Fa molto piacere essere un nonnetto musicale. Buonasera ad Agostino Spolaore, buonasera ovviamente anche dal mio compagno fedele ormai da tanto tempo, Maurizio Calzavara, qui questa sera come di consueto per l'appuntamento con il live. Una serata piena di tanta gente che stasera noi non ci facciamo mancare mai nulla e questa sera avremo un po' di reggae, un po' di musica rock, insomma avremo un po' di tutto, ma ne parliamo tra qualche istante. Buonasera anche da Brura di Veneto ovviamente, da tutti noi, ma soprattutto chi ci sta ascoltando è sintonizzato nelle frequenze di 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. I nostri numeri telefonici, quello in studio, lo 049 875 6423, mentre il numero per fare i vostri sms se volete mandare insomma per questa band che ci è venuta a trovare questa sera, vi ricordo il 346 23 20 033. Le nostre pagine su Facebook semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra è Blu Radio Veneto Rockwave, chiaramente gestita da il nostro direttore artistico. Sono un po' impappelato stasera, il raffreddore c'è un po' di raffreddore, c'è un po' di raffreddore. Alberto Fresco, insomma, che lui ci mette cura, un po' di cura sì. Insomma, questa pagina di Facebook, il nostro sito dove ci potete ascoltare in streaming, e cioè www.bluradioveneto.it. lì 24 ore su 24 c'è Blu Radio Veneto, basta cliccare dove c'è scritto ascoltare la radio e lì insomma ci sentite 24 ore su 24. E poi ancora potete leggere tutte le varie notizie e recensioni sia sulla musica e anche notizie e i fatti che possono capitare nella nostra regione, ma non solamente, insomma c'è un po' di tutto anche nel nostro sito. Credo di aver detto tutto e a questo punto non mi resta altro che presentare questa band, ma io prima di tutto sono un carissimo amico di Giulio Maria Garbellotto e che ringrazio. Buonasera. Ciao Giulio Maria. Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto. Grazie di aver accettato l'invito. Grazie a voi di averci invitato qua. Però assieme a lui c'è la band, io aggiungo si chiamano The Beta Project, giusto? Sì, esattamente, The Beta Project. Arrivati. Sono tutti qua. Sono tutti qua. Se li vuoi presentare tu, Giulio Maria? Va bene, allora parto da Andrea Facchin, qua alla mia sinistra, è il nostro banjoista e ukulelista. È un lavoro difficile, ma qualcuno dovrà farlo. Nonché chitarrista, armonicista, voce, insomma tutta una serie di cose. Poi abbiamo la splendida voce di Samantha Giordano. Buonasera. Un po' da lontano. Poi abbiamo al basso Riccardo Albori. Ciao a tutti. Alla chitarra Enrico Scussat. E poi abbiamo il nostro nuovo acquisto, ovvero Leonardo Calcaterra. Buonissimo. Sì, no, c'è il microfono sotto vicino alla percussione, magari te lo dividi con te Maurizio. Sì, per questioni di live abbiamo una sistemazione dei microfoni un po' particolare. Ci teniamo a salutare anche il nostro Tony Waters, che è il soprannome di Antonio Santini, che è il soprannome di tutt'altra cosa, che è il nostro percussionista, che stasera non è qui con noi ma che fa parte della band, è giusto salutare anche lui, che comunque sarà in ascolto magari. Assolutamente sì. E quindi un ciao a Tony. E poi ancora abbiamo la fotografa ufficiale. Sì, abbiamo la fotografa ufficiale, Ilaria, mia moglie. Anzi no, aspetta, che sennò non fa abbastanza professionale. Ilaria, la nostra fotografa ufficiale. Futura madre, tra l'altro. Ecco, abbiamo detto tutto. Sì, tra l'altro, insomma, di fatto questa è un'impresa familiare. E beh, quello che ha fatto grande il Veneto, pare, no? Giusto. Maurizio. Benissimo. Spulciando la biografia di Giulio Maria, ho letto una cosa fondamentale. Sulla strada di Damasco nel 1974 una Fender Stratocaster planò. Sì, una Fender Telecaster. Telecaster planò, era nell'armadio, la scorta da tuo papà. Diciamo che no, nel 1974 esattamente mio papà acquistò questa chitarra. Favolosa chitarra. La storia è ancora più bella, nel senso che mio papà conobbe all'epoca quello che era l'importatore ufficiale della Fender in Italia dell'epoca, e pur non sapendo assolutamente suonare la chitarra faceva a malapena il giro di do, anzi lo imparò penso proprio su una Telecaster, che è un po' insomma una cosa un po' strana prendere una Fender Telecaster e fare un giro di do. però da grandissimo appassionato di musica, mio padre comprò quella chitarra e dopodiché lui in realtà cominciò a suonare clarinetto e sassofono, dovete smettere perché insomma poi sono nato io qualche anno dopo. Perfetto. E quindi suonare il sassofono, mi raccontava mia mamma che si metteva con tutti i vestiti addosso per attutire il suono per evitare di svegliarmi, io mi svegliavo lo stesso, mia mamma dava la colpa a mio papà, credo fosse una scusa per evitare che mio papà era un grande amante della musica, ma come dicevano gli Schiantos, forse la musica non l'ha mai amato, però comunque la passione era quella ed è quella che mi è stata poi trasmessa. Tu avevi cominciato a suonare il piano, però hai abbandonato il piano. Sì, avevo cominciato. E ti sei buttato sul rock, sul blues, sulle sei corde. Sì, perché un giorno apro un armadio e scopro che c'è una Fender Telecaster. Qual è il problema? Che l'armadio lo apro che avevo 14 anni, metti assieme 14 anni, voglia di spaccare, di cambiare il mondo, chitarra elettrica, Fender, Telecaster, cosa e fai? Via, rock via, and roll, via. Quello fai rock and roll. E il risultato, quindi, fammi capire, il risultato di tutta questa storia è che sta Telecaster, poverina, da uno che sapeva fare solo il giro di Do, è passata un altro che non sa suonare, una tragedia. Esattamente, no, non solo, ma in questo momento tutti quanti i chitarristi seri, quelli che appunto poi ci mettono una vita a cercare di tirar sui soldi, eccetera. Tipo te, per esempio. A cui stai chiedendo scusa. Poi niente, fondamentalmente mi odieranno, credo, dal profondo, ma posso capire effettivamente. Comunque questa sì, la storia del mio avvicinarmi alla chitarra è stato questo. Sì, ma è bello che dalla Fender tu sei passato ad altri strumenti, ad altre invenzioni, ad altre esplorazioni, la batteria, la tromba. Sì, poi il problema qual è stato? Che in famiglia appunto la musica è sempre stata molto amata. Certo. E quindi fu mia mamma che per credo il 40° compleanno, cioè l'altro ieri, perché non ha mai in ascolto comunque, assolutamente, sei giovanissimo, ieri, poco da dire. Si regalò, se ricordo bene, lei si autoregalò la batteria e si fece regalare da mio papà un anno di lezioni. Risultato fu che mio fratello cominciò a suonare anche lui la batteria, io c'avevo la batteria in casa, quindi da curiosone della musica ho cominciato anche con la batteria, pianoforte comunque un po' l'ho tenuto, non so suonarlo, lo strimpello, diciamo la verità, poi la tromba, poi insomma sì, diciamo che sono un curiosone musicale. E poi sei un curiosone, hai curiosato anche nel funky, hai fondato un gruppo, Skip System. Sì, gli Skip System sono, diciamo, sono stati quello che i Beta Project sono adesso, era diciamo in nuce, tanto è vero che c'erano già Leonardo alla batteria, Enrico alla chitarra, quindi c'era già un progetto. Sì, era più virato forse a fare canzoni, al tour un po' di cover miste con delle canzoni che poi adesso sono nel disco, che quindi sono nate anche decisamente in quella in quel contesto, però diciamo sì, era in fieri quello che poi è diventato il Beta Project. Sì, perché Beta Project, dobbiamo sottolineare, cari ascoltatori, ha tante facce, ha tante colorazioni, cioè come ha detto giustamente Agostino, il reggae, ma c'è anche il funky, c'è anche il rock, c'è anche il blues, e quello mi piace molto. Poi di blues parleremo con Samata, e la sua voce ha determinati colorazioni. Sì, c'è del funk, diciamo che c'è una frase che piace molto al nostro bassista che è qua presente. Lui è una Fender, quando ci chiedono di venire a suonare eccetera eccetera, ma che genere fate, quelli che non ci conoscono, no? Ed è un po' difficile, già è difficile di base quando hai un genere prestabilito, figurarsi noi che ne abbiamo tanti. Certo. La frase che piace molto a Riccardo è: noi non abbiamo deciso di non piegare il nostro messaggio a un genere precostituito, ma abbiamo deciso di piegare vari generi ai nostri messaggi, al vostro messaggio, che vogliamo dire. Chiaro. È piaciuta detta così, l'ho detta con... Sono commosso. Okay. Questa è una frase che proprio lui, io credo che lui la voglia, penso che ci stava preparando una tesi di laurea, proprio si voleva iscrivere all'università. Volevi iscrivermi apposta per... Non dare esami, ma solo per fare come tesi di laurea. Benissimo. Laurea questa. E quindi sì, di conseguenza diciamo che è un po' una summa di un percorso che ho fatto in questi anni e che però si è andato a intrecciare al percorso variegato di tutti i musicisti con i quali ho avuto l'onore e anche l'onere, perché poi ho avuto la possibilità e la fortuna di suonare con musicisti talmente bravi che è stato anche un onere essere all'altezza, perché ho mi sono ritrovato in situazioni anche in studio registrazione e quali insomma io ero e lo sappiamo, sì, diciamo che tu pieghi i generi, noi ci pieghiamo a te, sì, fondamentalmente sì. Io sono quello cattivo della band. Sì, no, ma, come, ma l'abbiamo sì, scelto per la voce anche. Sì, hai una voce molto profonda, quindi sì. Profonda che dà una certa... sei un cattivo nel senso positivo del termine, sì, non cattivo, sì. Fai pensare, possiamo dire questo. Ma lui, infatti, nel CD, alla voce strumenti, c'è ukulele, banjo, voce e... cattiveria. Satana. Confermo. Benissimo. Allora, io vi porto già dei saluti, ragazzi, cioè io vi leggo la frase. Ciao Giulio, ciao Sam, ciao Fac, ciao Leo, ci siete tutti, punti di domanda? Mi sono appena sintonizzata, ciao Agova, mi saluta, ed è la Franca. No, grazie. Ciao Franca. E io ci tengo, se posso un secondo, ci tengo anche a salutare sicuramente Roberto Veronese, che è il bassista che ha fatto il disco, che ha suonato con noi per un bel po', che continua insomma a seguirci, a collaborare eccetera, e poi assolutamente Giovanni Natoli, che è un caro amico e grandissimo batterista, che c'è nel disco e lo sentiremo abbiamo già avuto stasera. Modo di conoscerlo anche noi qui, una persona eccezionale, sì. E l'altro batterista che è passato per la formazione, che è mio fratello, che è Alberto, che saluto anche lui sicuramente in ascolto, e quindi salutiamo anche queste, tutte queste persone. Ciao Giovanni. Allora io direi di fare già subito un break e far sentire questo disco, che tra l'altro non abbiamo ancora annunciato il nome, o sbaglio? No. L'abbiamo ancora fatto, però lo facciamo con, se non sbaglio, proprio con la title track, no? Con Queen with No Crown, che è anche il titolo del disco, Regina senza corona, e spero che vi piaccia. L'ascoltiamo e poi magari ne parliamo. Late on Friday, here's a bloom. Nobody cares for an empty room. She laughed my hands and let me go. She broke the void we were into. And I don't care if she calls me fool. She says a user has a tool. Own her soul and left her with no words. Now I could not care less. Follow me if you please. Don't pretend you can rest at ease. Think I'm a monster of some kind. Think you can be part of my mind. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Intanto abbiamo la conferma che Giovanni ci sta ascoltando. Quindi grandissimo Giovanni. Ciao Gio. Vi ha già ringraziato per i saluti che avete mandato, insomma, tramite la nostra emittente. Allora, Giulio Maria, una riflessione sull'incapacità a volte di riuscire ad essere quello che si vuole. Così dici su questa canzone? Allora, sì, nel senso che la canzone parla di quando ci si lascia, quando due persone decidono di dividere le proprie strade e di conseguenza quando ci si rende conto a volte, perché effettivamente a volte capita, che si è dalla parte dei cattivi. E di solito si tende sempre a cercare di evitare di pensare che appunto di se stessi, che si è i cattivi, che si è diciamo in qualche modo in fallo, però a volte capita, e questo è lo spunto dal quale nasce questa canzone. È una canzone che parla appunto di una regina che è senza corona perché gli viene strappata da me fondamentalmente, e che quindi si ritrova a pensare le peggio cose del sottoscritto, a volte anche giustamente, perché so che la nostra voce dal basso stava dicendo esattamente, ma no, io stavo dicendo solo regicida. Lui ogni tanto non solo subentra, ma subentra anche con parole che poi mi tocca andare a guardare nel dizionario. Nel dizionario, mi pare giusto. Beh, è un ruolo interessante. Comunque io volevo dire a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che non ci possono vedere, che durante la spiegazione di questa canzone è successo che il nostro bassista Riccardo, il nostro chitarrista Enrico si sono abbracciati. Samantha ha gli occhi rossi e un po' piange. Leonardo non ha capito cosa sta succedendo. Beh, è da troppo poco tempo nella band, secondo me. Troppe poche prove. Abbiamo scritto che questa musicalmente, secondo noi, è una pop song molto accentuata, secondo me, molto accentuata, con la ricerca di un ritornello azzeccato, un pezzo circolare che poi si scatena alla fine. E tu giochi un po' col pseudo falsetto, giochi o no col pseudo falsetto? Sì, un pochettino sì, l'idea di perché base... Perché a me piace molto il falsetto, francamente, lo posso dire, e lo ripeto ogni qualvolta un artista viene qua e riesce a giocare, a cantare col falsetto, mi piace particolarmente, mi attira particolarmente, perché secondo me è molto difficile, ma è molto significativo, prende, a mio parere. Io dico una cosa che forse non dovrei dire. Dimmi. Io non nasco cantante, io quando mi chiedono del disco dico sempre sì, no, canto perché l'ho prodotto io, per cui così mi fanno cantare. Perfetto. Questa la dico sempre, che non è troppo distante dal vero in realtà, però no, a parte gli scherzi, per cui diciamo che è stato anche per me un modo per mettermi alla prova con determinate situazioni, determinate tecniche, eccetera. E finisce in questo modo la canzone perché è una sorta di riconoscimento del fatto che comunque la situazione, quella descritta durante la canzone, nella quale appunto si dispiega questa difficoltà di comunicazione, questa difficoltà di capirsi, e nel quale appunto viene spiegato che sono io il mostro, alla fine mi porta fuori dalla mia testa, no? Mi fa, sì, impazzire, sì, ho capito. Mi e quindi fa... la pop song viene stravolta, viene, sì, modificata, viene allontanata nel proprio senso del termine. Vuole essere un'evoluzione. Esattamente, un'evoluzione, sì, del pensiero, quindi seguire questa evoluzione del pensiero e di questa autocoscienza, fondamentalmente. Questo sì. Ok. Io direi a questo punto sì, abbiamo spiegato bene, è ora di suonare, chiaramente. Facciamo ascoltare qualcosa dal vivo. Sei d'accordo? Assolutamente sì. Cosa ci proponete? Allora, noi cominceremo con due brani. Il primo ve lo presento adesso e poi l'altro ve lo presento dopo. Il primo si chiama Misread Emotions, che è anche questo brano è sulla falsa riga tematica di quello che abbiamo appena ascoltato, e quindi sulla difficoltà di comunicazione, sulla difficoltà di capirsi. Share talk to your soul and bleed and weep, so I know you're alive. I miss red emotions like never in my life. So we bleed till I know you're mine. Too dark to seek, your light is so real. I won't be sad, driving me mad. Do I need to care? But for now, leave and bleed. Mastering hordes of my worst nightmares, hello. Now some put darkness, put on your topless, cried out your cradle and moan. You seem so lifeless, so please bleed and weep, so I know you're alive. And weep and bleed more and more, and so you know you're mine. Too dark to seek, your mind into weep. I won't be sad, cause you knew you were driving me mad. You knew you were driving me mad, but I know you don't. You're my light, you're the light, you're my reason to fight. If I follow my dreams, there is you in my sight. You're in me, I can tell, cause you drive them insane. I would do anything, feel no pain, feel no shame. Speak no more or I'll tell something more than you need. That's the way that curse back from which I need to feed. I will spread out the word of our own absolution, but no, they don't care, that is no solution. We spread out the word of our own absolution, but you, era Misread Emotions. La prossima canzone si chiama Occhiali Vuoti, è una canzone che per me ha un valore emozionale molto molto forte, perché è una canzone dedicata alla memoria di mio papà, che non c'è più, e spero che vi piaccia. Occhiali vuoti alla finestra, questo è tutto quello che ho di te. Ancora scorgo quello sguardo triste, pieno di amore, di taciturne e verità. E quegli occhiali vuoti alla finestra, che mi ricordano che mi aspetti di là. Un sogno, un abbraccio, anelo di vederti ancora. Un vento caldo mentre mi rispieghi cosa dovrei fare ora. Ora. Non posso fare altro che sognare. Mi son mai scusato per le mie cazzate, ti ho mai ringraziato per un tuo sorriso. Mio figlio, sai, si chiamerà come te, erediterà il tuo buon cuore e il tuo viso. E sogno un abbraccio, anelo di vederti ancora. Un vento caldo mentre mi rispieghi cosa dovrei fare, ma riuscirò ad andare così lontano. Mi ritirerò quando dovrò sfondare la mano, mi sorreggerà quando sarò messo alle stelle. via con te. Oh, con te. Con te. Con te. Con te. Sguardo vuoto la finestra, scruta dentro me a cercare cose che già sa. Ma questa volta non mi pesa, giuro, è solo che mi manchi papà. E sogno un abbraccio, melodi, vederti in coro, un vento caldo mentre mi rispieghi cosa dovrei fare. Mi sorreggerai quando sarò messo alle strette e verrò via con te. Bellissima. C'è un piccolo omaggio a Enzo Iannacci all'inizio di questo, sì, pezzo. Come mai? Allora, l'omaggio che c'è a Enzo Iannacci è l'unica canzone in italiano, dobbiamo sottolineare. Questo è l'unico pezzo, sì, del disco in italiano. E, c'è una storia anche dietro all'omaggio a Iannacci, mentre, sì, mentre ci incespichiamo, no, tra cavi, stiamo eccetera, solo eccetera, trasportando la chitarra, tutto dal vivo, anche quello. No, no, assolutamente no, è per dimostrare che tutto, non c'è niente registrato. Esattamente no. Anche se facciamo degli errori, è soltanto perché ci siamo preparati. Così. No, no, ci siamo preparati degli errori apposta. Da perfetto. Si chiama jazz. No, sì, si chiama jazz. Allora, noi non facciamo mai errori, al limite variazioni. Esatto, esatto. Bello. No, dicevo, l'omaggio a Iannacci in realtà è contemporaneamente un omaggio a mio papà, nel, certo, senso che quella era la canzone che mio papà mi cantava quando ero piccolo e io stavo poco bene e lui tornava da lavoro, si metteva vicino, seduto sul mio letto e mi cantava quella canzone, quindi questo è l'omaggio che poi è un omaggio all'omaggio, nel senso che nel disco l'accenno come mi ricordo come la cantava mio papà, che non era particolarmente intonato, era mille qualità mio padre, però proprio intonatissimo, ecco, non me l'ha passata. Ho capito. Gli occhiali sì, ma la voce no, a parte gli scherzi. Posso farvi un omaggio anch'io? Certo. Pronto? Pronto? Chi è? Cosa sono quelle battute sul jazz, Samantha? Sugo! Grandissimo, sugo. Giovanni! Ciao, Dario. Ciao Giovanni! Io ero inconsapevole del fatto che ci fosse Andrea Facchin, se no non avrei risposto a questa telefonata. Adesso no, che ti abbiamo parte, sotto... Io so che siete per radio, ma non posso ascoltarvi perché sono in un bunker. Però mi fa veramente piacere. Ma e... Ti fa piacere non ascoltarci? La guerra è finita qualche anno. No, mi fa veramente piacere non ascoltarvi. E aver risentito la voce di Agostino. Invece che... Grazie. Visto che sono stato in quella radio con grandissimo piacere. Allora sono altrettanto felice che voi siate lì, no, per grazie, rispondere il verbo musicale di GMG. Giusto. Comunque ti mandiamo la registrazione. Ah, va bene, grazie. Sì. Così puoi non sapere. Non usate i CD della Coppa perché non riesco a leggere. Così puoi sapere anche quello, tutto quanto di male abbiamo detto di te prima che tu telefonassi. No, infatti, e quello diremo dopo. È lì che poi impugnerò con il mio avvocato una bella causa. No, un'altra, mettiamoli tutti assieme. Sì, esattamente. Dai. Comunque sono veramente contento proprio. Immagino che siate stati benissimo. Qui. Abbiamo appena cominciato. Stiamo stando benissimo. Stiamo stando. A me non so neanche che ora è, quello è il problema. Sono 21 e 31. Grazie, perfetto. No, perché sei, io vivo un po' in un altro mondo. Allora... E tu musicalmente come sei messo, Giovanni? Ma io sto suonando bene. Sì. Adesso dovrò... Sì. Viva la modestia! Ma voglio... Ti garantisco che sto suonando bene. Quindi non sono più. Ma i batteristi non alterano. Ricordate voi. Dovrò suonare fra poco, insomma, un po' di impegni. Tasi, Giovanni. Allora, è fondamentale ricordare che, lo so, ci facciamo un po' di pubblicità contro. Viva la concorrenza, credo la concorrenza non esista, siamo tutti fratelli, quindi lunedì prossimo, la sera, andate all'Osteria dei Cancari ad ascoltare Giovanni, che vabbè, Giovanni è quel che è, ma il resto del gruppo vale. Andate ad ascoltare Kowloon, che sono un gruppo di, posso dire, più o meno jazz. Ci sta. Più o meno tutto. Più o meno, più o meno geni anche, tra l'altro. Sono bravissimi. Sono i Kowloon, cercateli, ascoltateli lunedì prossimo all'Osteria dei Cancari. Fate visto il giro. Grazie, sono veramente commosso. Il pagamento della pubblicità più tardi. Va bene. Devi parlare con me, Giovanni. Per però ti devi rivolgere a Yuri per i soldi. Poi spiegheremo tutto questo. E anche chi è Yuri. Giovanni, ti saluta anche Franca, Sì, ma mi sta salutando da più fonti, devo dire la verità, ma mi fa sempre piacere. Giovanni, tu sei l'unica persona che conosco che non è né 1.0 né 2, sei 6.0, nel senso che tu sei ovunque in qualsiasi modo, qualsiasi forma. L'importante sia il punto e il numero uno in mezzo a sé. No, la cosa più divertente è che lui in realtà è l'unica persona che in questo momento può vederci alla televisione e non sappiamo come, tra l'altro. infatti, però... L'ingrassa. Mi sono vestito di nero apposta. No, sono le feste, Giovanni. Sì, infatti. Ma sento una voce che non riconosco. C'è Leo. Caro mio. Sono il tuo alter ego. Siete andati delle buone, ragazzi, ve lo dico io. Io ho un altro mese di vita, ve lo dico. Leo dura, invece. Guarda, aspetta, dipende, ti ricordi che è con noi Leo, per cui bisogna vedere se dura con noi. Ah, vabbè, questo è vero, forse tu dici mi sono salvato, no dai. No, sentite, io vi do un bacio, purtroppo devo staccare perché sono in una situazione incresciosa che ama si lavoro. Però grazie veramente, sono felicissimo di questa Giovanni, cosa. Giovanni, grazie della disponibilità innanzitutto, loro non sapevano niente, ho deciso all'ultimo momento. Certo, grandissimo Giovanni, un abbraccio. Ciao Giovanni. Grazie, ciao, ciao, Giovanni. Ciao. Se posso permettermi, ricordiamo, Giovanni è uno dei più grandi batteristi jazz di Venezia, possiamo dirlo. Sì, perché, assolutamente, è un mostro. Poi noi scherziamo. Ed è per quello che non suona più con noi. Esatto, che non era il posto da. Posso dire, secondo me è uno dei più grandi batteristi di Venezia, non solo jazz. Ah, okay. È detto da un batterista, è tutto dire. Esatto. Di Venezia, tra l'altro. Di Venezia, esatto. Roberto vi fa sapere che è veramente bella questa canzone, una melodia nostalgica nel ricordo del padre, la canzone precedente. Insomma. Grazie Roberto. Potremmo ritornare al primo pezzo che avete fatto dal vivo, perché lui ha scritto qualcosa anche su questo pezzo. Sì, leggo, purtroppo. Cito testualmente, ho scritto il giro armonico nell'ottobre del 2009 in Brasile. Inizialmente sarebbe dovuto suonare come una canzone folk pop, ma non ero soddisfatto del testo, del mood in generale, quindi l'ho cambiata, l'ho decisamente cambiata, e qui entra la voce soul sua. Assolutamente sì. Ecco, sto parlando di te. E perché entra la voce soul sua? Perché, Giulio? Ti prego, dimmi, non raccontare quella cosa che eri in Brasile per quella brutta storia di droga, racconta tutto il resto. No, allora, diciamo che è una canzone che da una, dalla genesi molto inspirational, come, si, come si dice, signore santo, cos'è questa roba? Non lo so, mi è venuta così. Devo dire la verità, questa canzone non sarebbe questa canzone se io non avessi conosciuto Samantha. All'epoca stavo appunto decidendo che pezzi mettere nel disco, gli arrangiamenti eccetera, e questa canzone non sapevo se metterla o meno. In realtà è una delle canzoni poi alla fine delle quali sono più legato, soddisfatto, sì, assolutamente, ma anche proprio come soddisfazione di come è venuta fuori, e è molto cambiata sulla voce di Samantha, sì, perché è virata secondo la sua, la voce di assolutamente Samantha, assolutamente sì. No, ma non solo, ma ci ha messo anche molto del suo, nel senso, senza che io intervenissi più di tanto è lei che mi ha tirato, più che io più che far virare io la canzone verso la sua voce, è stata la sua voce che l'ha tirata in una direzione, e che è il risultato, diciamo, secondo me logico di quello che poteva venire fuori. Poteva venire fuori soltanto quello, e devo dire la verità, sono molto soddisfatto, quindi grazie. E quindi per quello abbiamo parlato di momento blues e soul, perché alla fine, anche qua in questo momento, qualche minuto fa, l'hai, se mi è consentito il termine, portata a quelle dimensioni, da una canzone che doveva essere folk, si è dilatata, si è allontanata grazie a Giulio Maria che l'ha ridisegnata, e tu che l'hai portata a queste situazioni musicali. Io l'ho sentita così. Ma è qualcosa di assolutamente, ovviamente, involontario, ma penso che sia più che altro una questione timbrica, perché è quello importante, però. Sì, ma appunto sì, è una cosa nata molto naturalmente, nel senso, la canzone, la linea vocale, già bene o male Giulio l'aveva scritta, aveva un'idea di come dovesse andare, ovviamente, perché scrivendo anche il testo. Però poi sì, si è lavorato insieme tutti davanti al tavolino a casa a Venezia. Col mio gatto che ci guardava, gatto, abbastanza sì, strano. E insieme è venuta fuori poi sì, così com'è. Però sì, è proprio, penso si possa ricondurre solo a una timbrica, più che altro perché effettivamente io il blues non lo canto, non l'ho mai cantato. E diciamo le cose come stanno. La sacrosanta verità. Quella che avete sentito è la voce di Enrico, che collabora da tanti anni con Samantha e che vorrebbe farle cantare più blues e più soul. Diciamo che ci stiamo lavorando. In diretta radio è riuscito a sfogarsi. Diciamo che ci stiamo lavorando. Io sì, no, più che altro vengo dal rock, dal pop rock, cose di questo tipo. Per cui anche come ascolto, diciamo. Per cui mi manca proprio un certo tipo di sound dal punto di vista vocale. E qui abbiamo scritto anche Respiro Internazionale. Questo è un pezzo da Respiro Internazionale. Cosa dici, Giulio Maria? Sì, devo dire la verità. La cosa che più mi preme sottolineare, è chiaro che non dovrei dirlo io, no, però che quello che cercavo era un ritmo che fosse un qualcosa di poco sentito a livello nazionale, secondo me, nel senso che è un ritmo che non è molto utilizzato nel nostro stivale. Non capisco perché in realtà tira molto, è molto ballabile, fa muovere, e secondo me appunto sarebbe da sfruttare di più, insomma, io non so, dopo che la scaletta vostra dal vivo non la conosco. Però nel disco c'è una versione acustica. La faremo più tardi. La piccola chicca finale. Perfetto, è molto piccola, interessante. Okay. Hai svelato il segreto. Scusate, però non ero sicuro. Allora, nel disco formalmente c'è. C'è assolutamente. Io parlo del disco nella scaletta. Ma ne faremo una versione apposita, intimista. Per noi. Proprio per voi. Per noi, perfetto. No, due chicche abbiamo preparato. Molto questa più. È un'altra, che però questa rimane. Quella non la svegliamo, la seconda. All'ultimo. L'altra è la pizza, vero? Quella sì, più tardi. Allora, io direi a questo punto di fare un piccolo break con un estratto da un CD, sì, la traccia numero 3, insomma, quella che gira su YouTube. Sì, è una canzone della quale abbiamo fatto il video questa tarda estate. È quella che mi ha fregato, nel senso che ascoltando quella canzone poi... Sì, sì, esattamente. Tra l'altro ha avuto un ottimo successo, abbiamo avuto varie migliaia di visualizzazioni in pochi giorni. È simpaticissimo anche il video, poi sì, anche il backstage. Sì, sì, no, è divertente, ci siamo molto divertiti. Sì, sì, siamo decisamente soddisfatti. Va bene, allora ci ascoltiamo questa The Stars and Sky Song, e mi dispiace per Andrea, ma la canzone la ascoltiamo tutta. Told me loving is nothing but a lie, a bunch of crappy assets passing by. But if loving is such a thing, I think I need a couple of good explanations, like, well, number one. tell me why I'm so happy when I'm crying. If I'm crying for your loving that you can't deny, explain to me how exactly do you feel inside when your happiness seems like a tie. When I feel blue cause I need you, everything else seems black and white. But with my baby by my side I fly so high, like a surfer with a colorful guy. Waiting in my car to sat so you door. Interested in that skirt that I so adore. Where do we go? Well, I don't know your name and my amour. You be the dancer, be the dancing floor. All that I see in you is like the stars for the sky. Whoa, oh, oh. Explain what do I shake? Anytime that is you next to me when I wake. The parfum of your hair is all over my chest, you know, just there. Well, I guess that's for the best. Talk to me, tell me all about your secrets. What about me? Well, I was simply the weakest. Now I roar like a lion, I'm king of the jungle. Watching the world wide open through a huge ensemble. Whoa, oh, oh. Stars and the sky. Stars in the sky, oh, oh. Meaning that I need you to be complete, and you need me, and you know you can't deny. No, no, no. Sing along and let go. Blue Time Live. Blue Time. Live. 21:45, quasi 46 in questo preciso istante, sempre con Agostino Spolaore, con Maurizio Calzavara, ma soprattutto con Giulio Maria Carbellotto e la sua band The Beta Project, che ci stanno presentando questo splendido disco che si intitola Queen with No Crown. Adesso la domanda mia mi sorge quasi spontanea, lo faccio a te Giulio perché sei così il leader, il frontman, insomma, perché ci hai aggiunto questa divagazione funky alla fine di questo pezzo reggae? Un po' perché io in realtà non ho... È una semplice curiosità. Sì, sì, sì, un po' perché, devo dire la verità, io prima di scrivere le due canzoni reggae che ci sono all'interno del disco non avevo mai suonato reggae in vita mia. E quindi una delle motivazioni per le quali c'è questo giro funky è perché volevo dare un altro tipo di impronta al finale. E seconda cosa, perché la mia intenzione per il finale di quella canzone, che è abbastanza, diciamo, ovvia per certi versi, nel senso buono secondo me del termine, era quello però di sorprendere alla fine, cioè ok, si va nel ritornello, si torna nella strofa, ci sono gli assoli di fiati di nuovo eccetera eccetera, e poi alla fine ti frego, questo era e ti faccio la cosa che non ti aspetti, insomma. Ma quando suonate dal vivo questo pezzo lo fate così, assolutamente come sta? Così, e non solo, con un finale a sorpresa che si attacca a un'altra canzone adesso nuova che è ancora inedita. Poi c'è da aggiungere, che è interessante della questione, che sveliamo questo arcano, che se ci vedete suonare dal vivo questa canzone, c'è l'ukulele. L'ukulele è la chitarrina, quella piccola, sì, lo sapete. Che adesso conoscono tutti, perché Andy Vedder l'ha fatto sentire, esatto, al mondo intero. Quindi, grazie, ormai l'ukulele è... Salutiamo Andy Vedder. Salutiamo Andy Vedder. Che ci ascolta. Sì, esattamente. Non si sa mai. Ha trovato occupato prima perché c'era Giovanni. Se guardate il video della canzone, l'unico strumento che appare è un ukulele. Se ascoltate la canzone del disco, l'ukulele non c'è. È finto, sappiatelo, voi che ci state ascoltando. L'ukulele è finto. Vabbè, ma è come dire che non è sangue e pomodoro, perché dovrei guardarmi il film horror, esatto, io adesso. Però va detto, perché poi la gente si impressiona. non dormono più i bambini la notte. Poi ci sono le elezioni tra poco, un disastro. Maurizio, le tue considerazioni? Sì, no, tu giustamente hai parlato di funky, ma un funky a quasi finale... Poteva essere una jam session questo pezzo qua. In parte lo è. E in parte lo è, assolutamente. È proprio questa la caratteristica di una jam session. Potrebbe finire, potrebbe finire mai, potrebbe continuare all'infinito, come si usava una volta, come si dovrebbe usare qualche altra volta. Ma infatti ho speso un sacco di soldi in studio registrazione, perché siamo andati avanti 3 giorni a suonare il finale di questa canzone qua. Se no avrei finito molto prima. Tra l'altro mi ricordava mia moglie, ci tengo, che domani è esattamente... La nostra fotografa. Sì, la nostra fotografa. È il secondo anniversario dell'inizio delle registrazioni del disco, non me lo ricordavo, però è una bella cosa che siamo qua. Quindi 2 anni, insomma, che... Dall'inizio delle registrazioni, sì, dall'inizio della registrazione. Va considerato poi registrazione, tutto quanto, no, produzione, è lunga, porta editing. Via te. Ma io volevo prendermi così in maniera dittatoriale un attimo il microfono e raccontare questo fatto. Ancora? Che... Pensavo l'avessi già fatto. Ma ancora? Allora, c'è sempre questo problema, che voi che state dall'altra parte non ci vedete, ma dovreste vederla questa scena, perché il nostro batterista in questo momento è calato sotto il tavolo. Mi sono in soasa. Esatto, e a me sembra di essere James Brown, che non so se vi ricordate, andava in giro con un tipo bassetto che gli faceva i commenti, è la stessa cosa. Comunque di fatto accade che, perché diceva Giulio prima, c'erano gli Skip System, buona parte degli Skip System è presente qui ancora a suonare. Ci sono 2 elementi esterni, che siamo io e Riccardo, il bassista, e a me piace pensare e raccontare, perché è divertente, come sono entrato in questa cosa. È andata così. Giulio, che conoscevo veramente da poco al tempo, mi dice: guarda, sto per fare un disco. Io penso: bene, bravo, fai bene, è una bella cosa. E mi dice: ma niente, volevo chiederti se mi dai una mano. Beh, quel che si può, si fa, no? Sì, magari ci troviamo e mi dai una mano con gli arrangiamenti. E lì mi ha sopravvalutato, nel senso che io veramente non è che sono tutto musicista. Quindi vado a casa sua e lui mi presenta queste canzoni. E a me ha fatto molto ridere questo momento in cui lui mi ha detto: e qui cosa ci metteresti? E perché così è andato l'inizio. Sì, no. E io lo guardavo e dicevo: boh, non so, l'ukulele. E qui poi al tempo su Sinner Sprayer c'è il banjo. Io il banjo lo suonavo da 3 mesi al tempo, non sapevo farci niente. Lui mi guarda e questa cosa è stato un momento in cui veramente un po' ti ho detestato. Ecco. Sono seduto in studio di registrazione, lui era solito fare questa cosa, e sono lì col banjo in mano. Arriva lui e mi fa: ecco, qui facciamo un assolo di banjo di un paio di minuti. Però, cioè, hai avuto gran complimenti. Diciamoci la verità: tu hai ricevuto i complimenti dal signor Cristiano Verardo, chitarrista dei Pittura Fresca, sì, che tutti ricordiamo, nonché ottimo produttore, che è quello che ha registrato e prodotto il disco, e che, sentendo Andrea suonare il banjo, ha detto: cavolo, che bravo che sei. A me non l'ha mai detto in un mese di registrazione. Forse avrei dovuto la musica e lei non ama te. Esattamente, si ritorna agli Schianto. È venuto qui da 15 giorni fa, leader, sì. Freak Antoni si è venuto. Sì. Sai che adesso non è più, cioè, gli Schiantos per lui non esistono più, si è allontanato dalla band. Si era già allontanato tempo prima, però si è allontanato definitivamente dalla band, sta portando avanti un progetto suo personale. Io vi rubo qualche secondo perché devo fare un annuncio importante, nel senso che per chi ama i blues, si parlava qualche istante fa dei blues, domani sera c'è una serata di blues veramente imperdibile, cioè al Dakota Pub di Vigonza. Ci sono 20 straordinari musicisti di Padova e del Veneto, per dire appunto che il blues fa ancora, come dicono loro, batte nel cuore. Questi musicisti sono Matteo Sansonetto, Marco Pandolfi, Claudio Bertolin, Chris Blues Band, Max Lazzarin, Adriano Vettore, Pietro Taucher, Enrico Crivellaro. Ma soprattutto c'è una band che sono passati anche in questo studio, che ci hanno regalato una serata di blues pazzesca, e cioè, te le ricordi, Maurizio? Sì, certo. The Twisters con Alice Violato. Chiaro. Ci sarà anche lei domani sera, quindi l'appuntamento è veramente imperdibile per chi ama il blues. Vi consiglio di andare appunto alle 21 al Dakota Pub di Vigonza per assistere a questa grande, grandissima serata in onore del blues. Grazie, ci saremo anche noi. Dai, su serio. Ci saremo, nel senso che adesso che lo sappiamo, ci stavamo guardando per dire: ci andiamo anche noi, ci andiamo anche noi. Bene. Ma allora, ti vedi in difficoltà. Non so, si sappia, è successo qualcosa che non praticamente adesso è fuori uscita. Si capisce dove facciamo, cioè, spiegare, esatto, perché forse qualcuno ha sentito dei movimenti strani. Ma vuoi spiegare cosa mi è successo, Enrico, per favore? Ha delle perdite quella chitarra. Sì, ma di vaselina. Adesso mi devi spiegare esattamente. Perché noi abbiamo tutti dei musicisti, ma è solo sul manico, professionisti. E sono musicisti professionisti che hanno di conseguenza, se tu continui a fare, vabbè, insomma, non vi descriviamo la scena. C'è Andrea che è veramente in difficoltà perché Enrico usa, ognuno ha le sue manie. Esattamente. Sulle corde, praticamente. Per evitare che si rompano le corde, ma si è dimenticato, passando la chitarra ad Andrea, di dirglielo, e quindi adesso Andrea ha già fatto fuori quattro. Non voglio far pubblicità alla marca di fazzoletti, però quelli a vari veli, a vari strati, ne ha già fatto fuori un pacchetto. Ecco qui, quindi si diceva questo disco dei Beta Project. Sì. Parliamo del disco. Sì, comunque è vero, sì. Io, la genesi di alcune delle situazioni musicali che ci sono all'interno del disco sono quelle descritte dal nostro buon Andrea, ovvero: ma senti, ma qua, che ne dici se fai una solo di 2 minuti? È vero, assolutamente vero. C'è un uomo che va salutato, a cui dobbiamo sempre esprimere tutta la nostra compassione, e quell'uomo è Cristiano Verardo. Se ci stai sentendo, scusa. Che è colui che ha registrato il disco, e l'ho visto un paio di volte, un po' in difficoltà effettivamente. In difficoltà perché, per qual motivo? Perché era tipo, voi dovevate vederlo, Giulio, adesso veramente era un personaggio che si aggirava per lo studio, sempre un po' così, sempre un po' con l'occhio che ballava. Si guardava intorno, un po' di sottecchi, poi beccava un musicista, gli faceva un segno e diceva: va bene, vai, fai questa roba qui, perfetto, no dai, facciamola diversa. Ma come la facciamo diversa? E c'era Cristiano Verardo, dicesi perfezionista. Ma se lo dico io di me, non farmi dire nulla. Guarda che anche quando ti dicevo va ben così, era perfezionismo quello. Ma non è che a prove sia diverso comunque. Sì, è vero, però è uguale. Comunque, diciamo, noi veramente stiamo scontando una pena. Voi avete presente, ci sono i lavori socialmente utili, li puoi fare al posto del carcere. No, diciamo, e a noi ci ha mandato a suonare con lui. Andrea dice che ha fatto servizio civile, ma sono io. Va bene, facciamo un break con qualcosa dal vivo o volete dal disco? Scegliete voi, lascio carta bianca. Noi vi avremmo portato un pezzo che non c'è nel disco, in realtà anche di questo, se andate su YouTube trovate, trovate il video, il pezzo si chiama Fatality e speriamo che vi piaccia. Ok. Fatality is any name for my reality. Vitality, no, it wasn't much fun for me abruptly. I found I wasn't good enough for the fatality. It's my mentality. America isn't the wealthiest per capita. Africa, they ask me what's an harmonica. Veronica, she used dresses with plasticas, replicas of all taffetas. Oh brother, sorry, sometimes I get rougher. Recover, cause that is all I can discover. Come over, and I'll pour you another. My lover, you're not my brother. So, life is not good enough for me. Life is not good enough. Not for me, not for me, not for you. The trees is where you hung young referees with lemuries. I'm sure they do it in other countries. Striptease should be to the universities. Hippocrates better than Socrates. Oh, fatality is a new name for my reality. Vitality now wasn't such fun for me. Physicality should only rhyme with illegality. Joviality is my triviality. So, life is not good enough for me. Life is not good enough. Not for me, not for me, not for you. Sì, una cosa devo chiedere. Penso era molto divertente, proprio accattivante. Devo chiedere una cosa a Samantha. Ho letto che hai fatto Tommy. Ah, io voglio sapere perché hai fatto Tommy, questo mirabile sì, album degli Who. Specifico. Ero nel coro. Nel coro. Sì, non avevo una parte. Non ero un personaggio, parte, diciamo, fondamentale del musical. No, diciamo. Non avevi la parte della Tina Turner. No. È successo. Ero al liceo, penso in quarta superiore. E, facevo prove col mio gruppetto. Un gruppo da un annetto così. Avevamo questa sala prove in un centro a Trento. Se tu sei di origine trentina? No, sono di origini piemontesi. Però sì, sono stata a Trento per un po' di anni. Certo. Quindi, da lì nasce questa cosa. E organizzavano le audizioni all'interno del centro musica dove facevamo prove. Per un po'. Così, buttandomi anche, mettendomi in gioco in realtà, perché non avevo mai fatto niente di nessuna audizione, non sapevo neanche come funzionasse in realtà la cosa. È stata una bella esperienza. Lo spettacolo, tra l'altro, era stato montato molto bene, il regista molto in gamba, e aveva avuto molto molto successo. 3 serate, bene. Pienone, bello. Benissimo. È stata una bella esperienza, sì. Giulio Maria, tu hai fatto una specie di colonna sonora per un documentario del sì, 2010, sì. Com'è andata? Allora, è successo che Marcus Baronet, che è un regista di origine kenyota, se non vado errato, mi ha chiesto di fare la colonna sonora perché aveva avuto l'esclusiva per... girare il documentario sull'African Classic Rally, che è una sorta, diciamo, di Dakar, sì, fatta con macchine storiche, quindi Porsche, Land Rover eccetera, di una certa età. È molto molto interessante, devo dire la verità, ho scoperto, ho visto un sacco di posti belli, purtroppo soltanto via documentario. È stata una cosa molto che mi ha avuto, per me da un punto di vista emotivo è stato molto importante, perché poi quella musica è finita in un po' in giro per il mondo. No, ma è finita un po' in giro per il mondo perché tutti i canali tematici sportivi, da Dubai TV fino alla Nuova Zelanda, negli Stati Uniti, insomma. Poi ovviamente era una colonna sonora, però sapere che la gente in giro per il mondo ascoltasse quella musica, che poi tra l'altro è stata in parte ripresa in un pezzo che stiamo approntando adesso. Ah, vedi, c'è sempre qualcosa che poi arriva nel momento bisogna giusto. Bisogna sempre, al massimo si fa il brodo col... Sì. Si butta via niente. Esatto. Si butta via niente. Io devo fare una cosa in diretta, mi perdonate? Vai. Boh, ok, è stato dato lo scappellotto ad Andrea che è stato richiesto in diretta. Ah, sì? Giusto? Ok. Posso benissimo. Sapere il perché? Non lo so, mi è stato fatto cenno che è stato dall'alto. Richiesto, è stato fatto un te lo meriti a prescindere da Seba. Seba ha chiesto di darti uno scappellotto e quindi io sono una persona, il nostro pubblico è vabbè, no, hanno sempre ragione. Esatto. Tanto poi li trovo da soli di notte. Ma questi pezzi di cui parlavi faranno parte del prossimo disco, Giulio? Noi adesso siamo ancora in fase di scrittura, stiamo approntando i nuovi pezzi, li stiamo provando ai concerti, anche vedendo l'apprezzamento del pubblico, che è sempre importante. Non abbiamo ancora date, non abbiamo niente di fissato, ovviamente nel momento in cui per il disco, perché mi ha guardato con due occhi così, come non abbiamo date? Sì che abbiamo date, non abbiamo date adesso, per il disco. Adesso ne parliamo. Però sì, sicuramente è un'esperienza che vogliamo ripetere, quella del disco, e credo che non siamo gli unici che lo aspettiamo. Ma ti porti anche Andrea sempre? Sì, no, se beh. Sei costretto. Come accorda le chitarre Andrea in studio di registrazione? Cioè, tra l'altro vorrei riuscire a comprare anche il secondo disco, visto che sono l'unico qua dentro che ha comprato il primo disco. Sì. Allora, sì, no, anch'io. Due parole le vanno dette sulla genesi un po' strana di sto disco. Lui lo scrive, è vero, però normalmente nasce la band comincia a suonare, scrive dei pezzi e a un certo punto fa un disco. In questo caso è nato un disco. No, aspetta. Nasce la band. La band raccoglie un po' di soldi tra tutti e nasce il disco. Qua invece cosa è successo? Cioè, stavo per dire, succede che uno si sveglia una mattina e decide di fare un disco. Se lo fa, se lo paga, tra l'altro. Grazie Giulio, dite tutti grazie. Grazie Giulio. Avanti una birra. Se lo fa, se lo paga, poi rimane un po' lì. E poi fa la band. Quindi in realtà è un po' strano, perché tu, quando proponiamo, tu ti fai, ma il disco quando è uscito? Tipo nel 2010. E la band quando è nata? Nel 2012. Che problema c'è? E perché no? Alla fine perché no? Va bene, io a questo punto, Maurizio, direi, se tu sei d'accordo, di fare la solita famosa domanda. Insomma, ah sì, facciamo questa domanda. Perché deve essere molto interessante, visto che siamo anche in sette. Esatto, abbiamo tantissimi. 7+2, chiaramente. Io e Agostino, che non c'entriamo stavolta. Vai, Agostino. No, vabbè, insomma, è la classica domanda. Questa volta la facciamo un po' più ridotta, perché sì, siete tantissimi. Poi abbiamo solamente una facciamo mezz'oretta. Facciamo tre. Sì, facciamo tre pezzi a testa. Allora, se andaste in un'isola deserta, tre dischi che vi portereste con te, con voi. Non si può copiare, comincia Riccardo. Che parte Riccardo. Riccardo, vai Riccardo. Dark Side of the Moon. Perché si è proprio per dirlo, si è mangiato il microfono. Se vi è scoppiata la radio a casa, è colpa del fatto che per dire Dark Side of the Moon. Perché dovevi andare per primo? Sì, assolutamente. Vai. Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Non come... ti chiedo il perché. Non mi chiedi neanche. No, perché tutti lo sanno qui della band, noi però non lo sappiamo. No, beh, naturalmente ho una piccola mania per i Pink Floyd, che condivido anche con Enrico in parte, per cui insomma siamo abbastanza... Però Enrico non ha avuto la mano di Roger Waters appoggiata. Hai preso i biglietti spalla. Per Roger Waters a Padova? Assolutamente sì, perché anche Samantha e anche Enrico. Ma perché sono amici, loro sono diventati amici per 2 secondi e mezzo dentro un ascensore a Londra, giusto? Sì. Però amicissimi. Però. Amicissimi, io e Roger Waters ormai ci sentiamo ogni giorno. 2 secondi e mezzo. Sì, no, forse anche un po' di più, il tempo di fare una foto assieme. Perfetto. E basta, però è stato sufficiente. È stato sufficiente. Alziamo pure se vuoi. Ok. Allora, Number two? Sicuramente porterei un disco dei Beatles, credo Hard Day's Night, che è un, che non è, che, sì, che non bellissimo, è, che però non è il più, non è il più famoso, non famosi, neanche il più famoso, però non è quello più, cioè, più, più citato, che gira di più, più citato, ecco, esatto. Ce ne sono molti altri. E sicuramente un disco da Dave Matthews Band, perché la Dave Matthews Band, bene, è... perché c'è un motivo secondo me che tu citi, tu porti un disco del Dave Matthews Band, perché la formazione dei Beta Project, questo continuo giocare e andare a suonare, ha qualcosa del Dave Matthews Band. Come tutti sappiamo, Dave Matthews Band è una band dal vivo, ha fatto un sacco di dischi dal vivo, è una band dal vivo al 100%, con una forza strabiliante. Sì, sì, sì, assolutamente sì, c'è questa band alla cui in parte ci ispiriamo, l'altra penso che la dirà Giulio, la seconda band alla quale ci ispiriamo, però sì, sicuramente Dave Matthews Band è una delle poche band che al giorno d'oggi conserva ancora questo spirito live. Esattamente, che sì. Che hanno lo... 8 dischi da studio e 40 certo. dischi live, quindi... Sono i Grateful Dead degli anni 2000 praticamente. Sì, diciamo poco di da sì. Fare. Che detto, è davvero proprio lo spirito live, assolutamente tanto. Assolutamente sì, ho finito. Ok. che va adesso? Leonardo. Leonardo. No, non li avevo ancora preparati. Non vale. Allora facciamo Enrico. Enrico. Bah, se non c'è Ricky, devo portare anch'io Dark Side. No, non puoi. Non si può. E parlami vicino al microfono. Bene, sicuramente uno dei Pink Floyd, appunto. Watercolors di Pat Metheny, sicuramente. E un po' di funky, non saprei scegliere adesso. Però sicuramente un po' di funky. Una raccolta, via. Ma una raccolta, sì, raccolta. Studiata. Una raccolta studiata. Sei preparato, Leonardo? No. Non ancora. Sì, dai. Dai, vai Leonardo, dai. Cioè, perché Leonardo è sotto, come giusto? Sì, io non sono si sotto, vede, però. No, sono sotto al tavolo io. sicuramente un disco dell'ICDC. Ah, vedi. Perché la mia passione per la musica è nata grazie all'ICDC. A Piccoletto che suonava la chitarra, che suonava no la chitarra. No, in realtà no, lui alla band in totale. Sì, è stato mio compagno di classe un giorno in seconda superiore, che lo vedevo sempre con le cuffiette, io ascoltavo grande radio, sempre le solite radio, quelle commerciali, e gli ho detto: ma Carlo, cosa ascolti? Tutte le ricreazioni, questo Walkman. E fa: non sai chi sono gli SDC? No. Mi ho messo le cuffiette addosso e basta. È esplosa lì la, le sinapsi della musica sono nate e via. Esatto. E secondo disco porterei un disco di Jimmy Smith. Sit on It. Come mai un musicista non conosciutissimo, però molto interessante. Perché praticamente un giorno navigando su internet, sì, ho deciso di comprare un disco a caso. Un disco che costasse poco. Certo. E ho comprato questo disco. E t'ha soddisfatto al 100%. Un disco meraviglioso, stupendo, bene, che mi porterei assolutamente in giro per tutto il mondo. Bene. Bene, bene. E terzo disco. Beta Project. Ecco. No, non vale suggerire. Penso che porterei un disco di un'altra mia band, della quale non farò il nome perché non voglio fare pubblicità occulta. Ma puoi farlo, che sono i Panchinada. Che tanto volevo dirlo io. Per ecco, che è un disco che abbiamo registrato all'inizio del 2012. A Venezia ci sequestrano gli strumenti. E niente, lo porterei. Che non è il titolo del disco, la verità. Cioè. È un po' tutto e due. Lo porterei per fare un po' di pubblicità alle indigene del posto, insomma. Ok, benissimo. Samantha? Vai, Samantha. Mi hanno rubato le idee. qua è diventato veramente difficile. Vuoi pensarci un altro pochino? Dai, sì, ancora un pochino. Andiamo da Andrea. Vai, Andrea. Io sicuramente porterei alla faccia vostra A Night at the Opera dei Queen. Alla faccia loro? Come mai? Perché li odiano, non so perché. No, ma nessuno odia. Solo per rompere un po' le scatole, però ci piace. E poi porterei sicuramente Biography di Son House. Perché dovete sapere che lei c'ha la voce blues, ma l'unico che suona blues qua dentro sono io in realtà. Ah, perfetto. Lo conoscete meglio, Andrea è Andrea, ma anche Mr. Wob quando diventa bluesman in giro per le peggiori migliori bettole del Triveneto. E poi Sonhaus è il grande maestro, sì. Lui ha dentro tutto, è semplicissimo e poi alla fine il clavicembalo ben temperato di Bach suonato da Glenn Gould. Benissimo. Questo non lo conosciamo, vero Maurizio? Ben temperato non c'è nella scaletta, però Bach è meraviglioso al di là del musicista che lo suona, però Bach è un rockettar come lo era Mozart. No, lui è il primo artista progressivo della storia. Sono d'accordo con te. Beh, anche un po' jazz comunque. Sì, avete presente Jacques Lussier. Io sono andato a vederlo in Germania con la mia ragazza Bayreuth, veramente un grande musicista anche lui. Certo. Allora chi tocca adesso? Samantha, sei pronta oppure Giulia Maria? Allora, visto che fanno tutti molto i colti e sì, sparano titoli alternativi, cose ricercate, eccetera, eccetera, allora io porterò sull'isola deserta i primi dischi che mi sono fatta regalare. Bene. E cioè? Così, per fare revival infanzia. Ora potrete anche rabbrividire, ma guarda, ti vediamo spesso, quindi siamo pronti a tutto. Grazie. Allora, due dei primi dischi che mi sono fatto regalare: Older di George Michael. Silenzio. È voluta la cosa. Poi l'altro non me lo ricordo. Cioè, sì, allora, uno dei Pink Floyd io me lo devo portare, mi dispiace. The Delicate Sound of Thunder è quello, okay. Sì. Anche perché poi sono due, per cui sono due. The Delicate Sound of Thunder, no. CD 1, CD 2. No, un terzo Ligabue. Buon compleanno Elvis. Ah, buon compleanno. Va bene. Certo. Si è fatto una certa, noi si deve andare. Sì, io ho la macchina che mi aspetta fuori. Tanto per andare un po' controcorrente. Beh, insomma, se uno ha i suoi gusti è giusto che li... No, in realtà sono album che non ascolto quasi mai, però tanto certo. Per fare l'antipatica. Sì, mi vergogno un po' di quello che ho detto, l'ho detto in radio. Dovrei ascoltarteli sull'isola comunque. Per tutta la vita. Posso cambiare con The Best of the Beast degli Iron Maiden? No. E Giulio Maria, tocca a te. Io al contrario di quello che si può pensare non mi porto il disco mio da portarlo in giro, anche perché l'abbiamo portato in Nuova Zelanda qualche mese fa e penso che mi stiano tappezzando le balene ormai con quei dischi che ho lasciato in giro. No, a parte gli scherzi, io porterei sicuramente il disco di una band che qua è completamente sconosciuta, che io trovo fenomenale, per la quale non mi sopportano più i membri del gruppo, ma anche tanti amici, che sono The Cat Empire. Che sono i The Cat Empire, che è un gruppo di Melbourne, un gruppo australiano. Devo dire la verità, ho portato Riccardo a vederli in Germania. Purtroppo non vengono in Italia, perché parlando con loro a fine concerto mi hanno detto: noi siamo anche venuti, ma non è venuto nessuno al concerto, per cui non credo torneremo. E mi porterei Two Shoes, che è il disco che ha fatto successo negli Stati Uniti e in Oceania, e sono secondo me eccezionali. The Cat Empire. Poi porterei sicuramente qualcosa di John Mayer, che io adoro, anche quello non conosciutissimo purtroppo qui, adesso comincia a essere conosciuto. Io ho avuto la fortuna di vederlo. Sì, gli ultimi dischi sono conosciuti. Sì, io ho avuto la fortuna di vederlo nel 2004, quando lui ancora ragazzino era chitarra elettrica e voce all'apertura di un concerto di Daido a New York. E non mi ricordo. Aprì da Daido praticamente lui. Sì, e non mi ricordo minimamente cosa abbia fatto Daido. Io ero completamente estasiato da quello che ha fatto sto ragazzino con sta Stratocaster. E sono molto indeciso tra fare anch'io un'operazione revival e portarmi Use Your Illusion 1 e 2 dei Guns N' Roses, e qui credo che sia morto facca, oppure, aspetta, se senti il che cosa e con cosa lo metto in competizione, qualcosa di Gershwin, proprio per dire... Siamo lì. Uguale. Oppure Gershwin suonato da Slash, non lo so. Questo mi piace come idea. Secondo me potrebbe... No, vabbè, no, lasciamo stare. Queste sono le mie tre... Penso che porterei, devo dire la verità, i Guns N' Roses. Mi spiace. Eccolo lì. Quando ero giovane avevo i capelli. Avevo più di 3 capelli. Va bene, allora adesso invece io e Maurizio ci portiamo qualcosa dei Beta Project assieme, certo, a Giulio Maria Garbellotto. Ci ascoltiamo qualcosa dal disco? Certamente. Avete scelto la traccia numero 5, perché chi mi risponde? Non mi ricordo qual è la traccia numero 5. Sweet Revenge. Sweet Revenge. Vai. Rispondo io perché ho insistito tantissimo. Io ho appoggiato la mozione Samantha un sacco. Mi associo. Sì, Sweet Revenge vale. Credo che sia una canzone tra l'altro molto attuale. Una canzone che parla purtroppo di guerra. E considerare il fatto che ho scritto questo testo, che doveva essere tipo il 2004-2005, ancora adesso quelle guerre sono ancora in atto, nonostante proclami eccetera, credo che faccia di questa canzone una canzone ancora molto attuale. Poi c'è un bel sax anche per e poi c'è l'ottimo sax di Guglielmo Pagnozzi. Inchino da parte di tutti. E le percussioni di un altro grandissimo, Leo Di Angilla, percussionista tra gli altri Tiziano Ferro, di Giovanotti e di GMG and the Beta Project, nel disco, che è quello che lui mette in curriculum, tra l'altro. Ciao Leo, ci sentiamo. Sweet Revenge. Revenge, I said sweet revenge. Oh, Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Ti porto un messaggio, Giulio Maria, dice Massinissa, dice... Stavo per... Ti ho 30 secondi fa, io ho detto posso fare dei saluti quando rientriamo. Uno è per sleepangle.it e tutti gli amici di sleepangle.it, loro sanno. Ah, ecco, ecco. E vorrei anche sapere com'è andata la gara, tra l'altro, loro sanno anche questo. Te lo diranno. Allora dice, si sente poco la cadenza veneta di tutti. Davvero? Si sente poco? Perché c'è la luce rossa. Davvero. C'è la luce rossa. Ci stiamo contenendo. Ciao Massinissa, comunque, ciao a tutti gli amici di sleepangle.it. Posso salutare Seba io? Sì, Seba, ciao, che tra l'altro Seba. Ci segue da Genova. Quello dello scappellotto. Addirittura ti è arrivato da Genova, per questo è arrivato così forte. C'era che fortuna. Puoi non replicare. No. A proposito di concerti, che parlavamo poc'anzi, prossime date vostre. Allora, le nostre prossime date, noi abbiamo il 23 a Este, allo Zebra Pub, alle 9 mi sembra di sera, 8 e mezza, no, voi venite alle 8 e mezza che poi arrivate alle 9, che sappiamo come siete voi pubblico. Brutti, esatto. Brutti. E poi bissiamo due giorni dopo a Mestre, al Conestoga, anche quello attorno alle 9. Ma voi arrivate alle 8 e mezza, che anche lì c'è buona birra, buon da mangiare, buon tutto, e ci facciamo quattro chiacchiere. E ai nostri concerti. Come? Buona acqua per chi guida. Buona acqua per qui. È la parola acqua che ti fa un po' di... Acqua mi rimbomba proprio nel... No, tieni. No, grazie. Ho già avuto abbastanza. E vi ricordiamo che ai nostri concerti si può acquistare anche il disco. Lo trovate anche contattandoci via internet nella nostra pagina Facebook, che è facebook.com/betaproject. Oppure scrivendo al indirizzo email info@thebetaproject.it. E ovviamente anche nei vostri concerti. E assolutamente ai nostri concerti. Ci tengo a sottolineare che noi vendiamo il nostro disco, che è un disco anche stampato in un certo modo, con la copertina in un certo modo, eccetera eccetera, però considerando l'agenda Monti, e quindi come se fosse una demo, ma avete un disco intero, un LP fatto con i Sacri Crismi. Tra l'altro spezzo una lancia in favore del disco fisico. Fate sta cosa, comprate i dischi fisici, sono più belli, li hai in mano, sono un oggetto, soprattutto Azzurra Aicaredo, la fotografa assolutamente, che ha curato le foto del libretto, ha fatto delle foto eccezionali. C'è la foto di Samantha con Giulio, che è veramente splendida, vi ha esaltato gli occhi poi in una maniera... Sì, io ho un po' di problemi con quelle foto, perché le ho messe in casa e Ilaria dice, ma perché non c'è una foto mia in sta casa? Sono solo foto di altre donne. Ma perché Ilaria è fotografa, sta sempre dietro l'obiettivo. Bella comunque questa immagine in bianco e nero che vi ha evidenziato, insomma, questa fotografa. Complimenti alla fine. Grazie Zuraika, che credo che ci stia ascoltando anche lei, in caso comunque Zuraika Redo, giovane fotografa dal futuro brillante. E io poi volevo leggere questa non so, una poesia, un monologo, cos'è, un tuo modo di esprimerti, non so, che c'è all'interno del libretto. È quello che è la poesia che c'è prima della seconda versione di Misread Emotions. È diciamo una sorta di preludio al testo di Misread Emotions. Vuoi che l'ascoltiamo? No, perché dopo è quella che... Allora, la poesia dice, la posso leggere? Sì. Le piaghe dello spirito vegliano tra le pieghe della mente. Lei semplicemente non è più. E neghi, annegandone la luce fredda di un albergo da due soldi e due letti, separati e lontani. E dalla finestra un profumo di asfalto e nuvole, che vanno via come il pensiero che quel seno non è il tuo, ma quell'alito di vita, sospirato all'orecchio, mi scalda molto più di quanto tu sia mai stata capace. Grazie. Che è con me nel disco. Ecco. Ma ci hai mai pensato di abbandonare la carriera musicale per la carriera poetica? Sì, solo se però le mie poesie le legge soltanto Agostino, che sembrano più belle. Perché c'è da dire che Andrea un giorno viene da me e mi dice: Giulio, devo dirti una cosa. cioè il disco è bello, mi piace, sai che mi piace, sai che, e poi sono contentissimo di far parte di questo. E io, no, ma dimmi Andrea, siamo, insomma, siamo, perché tra l'altro io vorrei anche raccontare questo piccolo aneddoto. Andrea non è soltanto l'ukulelista, il banjoista, ha suonato l'armonica prima in Fatality, eccetera eccetera. Non solo, ma lui è quello che ha messo la firma Capitan Uncino, esatto, sulle carte del matrimonio mio e di Ilaria. Nel senso che lui è stato quello che ha fatto il nostro, cioè il nostro maestro di cerimonie del nostro matrimonio. Quindi proprio lui per me ha fatto di tutto. E nonostante questo, dopo un'apertura enorme tipo quella che ho appena fatto io con una logorrea un po' imbarazzata, infatti, però devo dirti una cosa, cioè non leggere mai più perché pacioli. Però era la terza birra, cioè sì. Ormai i freni inibitori erano andati. Certo, certo che sì. Bene, siamo quasi in chiusura, però insomma, visto che Renato non è ancora arrivato, ancora qualche considerazione. È arrivato da questo momento, quindi adesso lasciamo lo spazio per il suo programma, la sua trasmissione. E dicevo, Giulio, noi ti aspettiamo per Giulio Maria, scusa, il prossimo disco, se vi andrà di venire, ovviamente. No, beh, noi saremo felicissimi di tornare qua quando vorrete voi, e per noi è stato veramente un piacere, siamo molto divertiti, grazie mille per lo spazio che ci avete dedicato. Però noi aspettiamo voi tutti che ascoltate, e voi anche ovviamente, il 23 allo Zebra Pub. E il 25 al Conestoga. Esattamente. Oh, comunque, se volete, possiamo fare qua il prossimo disco. Sì, sì, potrebbe anche però essere questo. Cioè, perché no? Tutta una jam session mi costa meno, secondo me. Ah, ma paghi anche il prossimo. Ringraziate, grazie, Giulio. Grazie, grazie Giulio. Grazie Giulio, avanti due birre. Allora, un grazie a Riccardo Albori al basso. Grazie a voi. Enrico Scussata la chitarra. Grazie. Andrea Facchin ukulele, banjo, voce. Buonasera. Armonica, armonica. E poi ancora Leonardo Calcaterra la batteria. Grazie a voi. Ovviamente la vocalist, cioè la splendida bella e brava Samantha Giordano. Grazie, buonanotte. E Giulio Maria, ovviamente, Garbellotto. Grazie ancora e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie anche a Ilaria Giubilo per le foto, è stata simpaticissima. Maurizio, noi ci sentiamo quando? Dunque, tu sei presente lunedì con Paolo Saporiti, tu farai il regista a Stefano Dainese, apriremo benissimo la settimana con Paolo Saporiti, che è un cantautore molto bravo, molto interessante, poi io ci sarò martedì e poi ci ritroveremo giovedì con te. Con te, con Giulia Daici, una Giulia cantante. Daici, che è un disco un po' particolare, vero Agostino? Sì, l'hai fatto totalmente in lingua friulana, quindi è un esperimento che ha fatto lei, ma vi posso già anticipare che è un disco splendido. Persino i bambini ci sono all'interno, quindi cioè, c'è di tutto. È un disco veramente molto bello per chi ama poi la lingua friulana, insomma, sarà magari un po' più dedicata a quella, però musicalmente è molto, veramente molto molto bello. Allora ci salutiamo, Giulio Maria, con cosa? Noi vi riproporremo, visto che c'è in tutte e due le versioni, vi riproporremo Misread Emotions, che so che entrambi piace, visto che hai appena tra l'altro citato la poesia io che l'apre. La rileggo prima di cominciare. Va benissimo, e facciamo una versione un po' particolare che abbiamo studiato apposta per voi. Noi lasciamo lo spazio a Renato Ferro con la sua trasmissione di Heavy Metal. Ciao Maurizio, grazie. Ciao Agostino, grazie a te. E grazie agli Beta Project e ovviamente a Giulio Maria, insomma. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie, ciao, ciao. Le piaghe dello spirito vegliano tra le piaghe della mente. Lei semplicemente non è più. E neghi, annegando nella luce fredda di un albergo da due soldi e due letti, separati e lontani. E dalla finestra un profumo di asfalto e nuvole che vanno via come il pensiero che quel seno non è il tuo, ma quell'alito di vita, sospirato all'orecchio, mi scalda molto più di quanto tu sia stata mai capace. Capace, capace, capace. Cliff with me, talk to your soul and lead away. So I know you're alive. I misread emotions like never in my life. So we plead till I know you're mine. to seek your light and so we I won't be sad cause you knew you were driving me mad. You knew you were driving me mad. I need to your cradle and moan. You seem so lifeless, so please bleed and weave so I know you're alive. And weep and bleed more and more so you know you're mine. Too dark to see, too mild and too sad cause you knew you were driving me mad. You knew you were driving me mad, but I know you don't care. You're my light, your delight, you're my reason to fight. If I follow my dreams, there is you in my sight. You're in me, I can tell, cause you're driving me insane. I will do anything, feel no pain, feel no shame. Speak no more or I'll tell, something more than you need. That's the way the curse fell from which I need to feed. I will spread out the word of my whole absolution, but in all